Ciao a tutti, io sono Ettore, ho 20 anni e studio medicina all'Università di Pavia. Sono stato referente del presidio Giuseppe Montalbano del Liceo VSO di Imperia negli anni passati e ad oggi sono rimasto come volontario un po' a Imperia e un po' a Pavia. Oggi però sono qui perché vorrei raccontarvi un po' di cose su come la mafia stia cercando di approfittare di questo momento di emergenza, avanzando i suoi tentacoli soprattutto sui più deboli. Ciao ragazzi, in questo breve podcast non inizierò spiegandovi cosa sono le mafie, perché un'idea penso l'abbiate già tutti. Vorrei però partire da una formula chiave per comprendere le dinamiche delle organizzazioni mafiose, ovvero che esse da sempre hanno mirato e mirano al profitto. Profitto è una parola chiave, infatti. Già, potremmo dire che le mafie sono camaleontiche, capaci di adattarsi alle nuove condizioni che vengono a formarsi, capaci di prevedere i luoghi da cui possono trarre maggior profitto, appunto. In questi giorni in cui vi parlo, stiamo attendendo impazienti la fine del cosiddetto lockdown, e quando mi ascolterete, probabilmente si potrà tornare ad un inizio di normalità. Dobbiamo però sapere che le mafie non hanno mai chiuso i battenti, anzi, in questi 2 mesi hanno lavorato sodo. Beh, insomma, ha lavorato. Diciamo che sono state molto attive nel dispensare aiuti, per esempio portando pacchi con generi di prima necessità, mimetizzandosi a volte tra i tanti volontari che invece danno veramente aiuto a chi ha bisogno, ma soprattutto fornendo prestiti di denaro a chi, disperato, non poteva attendere gli aiuti erogati dallo Stato. Certo, il termine prestito che ho utilizzato senza aggettivi non è molto adatto a descrivere quelli che in realtà sono prestiti ad usura. Sapete tutti cosa significa, vero? Significa approfittarsi delle difficoltà economiche di tante persone che hanno dovuto fermare il proprio lavoro, prestando loro soldi liquidi. Alcuni di voi potrebbero anche pensare: beh, meno male, hanno fatto qualcosa di buono per una volta. Per una volta si sono fatti conoscere per qualcosa di diverso, invece di azioni truci e violente, un'azione buona. Eppure vi racconterò come dietro questi prestiti si nascondono spiacevoli sorprese. Immaginate per un attimo tutti, ognuno di voi, di essere una di quelle persone che accettano questi soldi. Beh, noi sappiamo che l'usuraio, il mafioso, al momento del prestito ti promette interessi bassi, o quantomeno accettabili, per te che in quel momento sei in seria difficoltà e necessiti di quel denaro magari per dare da mangiare alla tua famiglia, ai tuoi figli, per esempio. Ma sappiamo anche che purtroppo questi interessi da ripagare aumentano nel momento in cui i soldi devi iniziare a restituirli. Lievitano, e lievitano poiché l'usuraio, che non ha nulla da perdere, tiene sotto scacco la sua vittima adoperando una delle tecniche preferite dalle mafie, quali l'intimidazione, oppure anche il ricatto, in generale minacce di attività di danneggiare l'attività commerciale o l'impresa, e magari peggio ancora di fare del male alla famiglia della stessa vittima. Spesso però i mafiosi hanno un obiettivo finale: costringere la persona a cedere la propria attività, svendendola a loro stessi per ripagare il debito. Oppure mirano a portare l'attività commerciale all'interno del circuito del racket, il che vuol dire pretendere il pagamento del pizzo, sia da attività commerciali, ma anche da imprese di qualsiasi tipo, quasi come se fosse una tassa per preservarne l'esistenza stessa. Inutile dire, ragazzi, che le organizzazioni criminali hanno anche altre volontà che li spingono a svolgere questo tipo di servizio come prestiti ad usura, ovvero quella di avvicinare ai loro circuiti di attività illegali persone che ne erano rimaste fuori, in qualche modo riuscire ad intrecciare rapporti con una fetta, tra virgolette, sana della società, che loro non avevano ancora raggiunto, e quindi alimentare in questo modo la propria rete. La propria rete che è fatta innanzitutto di persone. Cavalcando l'onda di un periodo difficile in cui perseguire i loro obiettivi impunemente è molto più facile, appunto, fanno tutto questo. Qual è l'impatto della criminalità organizzata sull'economia? Beh, questo impatto, come afferma anche Roberto Saviano, ma come affermano anche molti altri studiosi, si potrà valutare solo dopo questi mesi di emergenza. Ma la possibilità di vedere un'espansione del circuito delle attività criminali è molto concreta. Quali sono le attività che rischiano di più da questo punto di vista, secondo voi? Beh, sono soprattutto, e ce lo dicono anche questo gli studiosi, le attività imprenditoriali che hanno dovuto chiudere, come bar, ristoranti, piccoli commercianti, piccole e medie imprese, alberghi, ma anche il settore agroalimentare, che invece in una larga fetta è potuto rimanere aperto. Certo, ragazzi, non stiamo immaginando che tutte le attività di questo tipo siano destinate a cadere nella rete delle mafie, ma vista la situazione inedita che ci troviamo a vivere, è importante che in quanto cittadini responsabili abbiate la consapevolezza anche di queste situazioni, che accadono nel nostro paese, ma non solo, quando tutto il resto appare restare fermo. Ce n'è abbastanza adesso, direte voi. Eppure non sono solo queste le aree di infiltrazione mafiosa predilette in questo periodo. Infatti, una volta terminata la fase di lockdown, la ripartenza potrebbe vedere le organizzazioni criminali, che possiedono ovviamente molta liquidità, finanziare le imprese che adesso necessitano di soldi per riprendere appunto la loro attività e che magari non riescono ad ottenere prestiti dalle banche. Il rischio quindi è che le organizzazioni mafiose finiscano per infettare fette di economia sana, come dicevamo prima, alimentando interessi criminali e rischiando di danneggiare ancora di più il tessuto sociale ed economico che è già di per sé colpito dall'emergenza che stiamo vivendo. Tutto questo potrà stupirvi, ma gli esperti che studiano e combattono da decenni la mafia ci ricordano che in tutte le calamità naturali e le situazioni di emergenza, la mafia si è fatta trovare in prima linea. Non per soccorrere, ma per accaparrarsi appalti, ad esempio. Questi, infatti, sono sempre stati di grande interesse per le mafie, proprio perché le cifre in ballo per la realizzazione di opere o la presa in carico di servizi sono generalmente cifre importanti. Per ottenerli, tra le armi più tradizionali, ma allo stesso tempo molto in voga nel ricettacolo mafioso, spicca la corruzione. Questo è un aspetto dell'azione mafiosa che si tende a volte a sottovalutare, e lo si sottovaluta spesso perché è proprio di uomini e donne che ricoprono incarichi importanti, come vertici di grandi aziende o personaggi delle istituzioni sia nazionali che locali. Essi rappresentano la cosiddetta zona grigia, perché non tutti sono mafiosi in senso stretto, ovvero non tutti sono affiliati di cosche, ma molti intrattengono rapporti stretti con la criminalità organizzata, perché vengono appunto avvicinati e corrotti con grosse somme di denaro in cambio dell'assegnazione di appalti o commesse. Beh, questi appalti o commesse vengono appunto comprati, pagati in qualche modo, da chi ha delle posizioni comunque di potere per evitare la concorrenza e quindi farli assegnare a ditte vicine ai mafiosi stessi. Anche qui ovviamente l'obiettivo è il profitto, l'obiettivo è un arricchimento dell'economia criminale, dell'economia mafiosa, ma anche allo stesso tempo un controllo del territorio, un controllo sulle opere che vengono appunto a costituirsi, sui servizi e soprattutto un altro tentativo di fare rete attraverso le persone. Di tutto questo abbiamo avuto un triste esempio dopo il terremoto dell'Aquila nel 2009, per avere un esempio abbastanza recente, che vide appunto infiltrazioni mafiose durante la ricostruzione che portarono a ricostruire mobili di cattiva fattura dopo appunto essersi aggiudicati appalti. Un rischio però l'abbiamo corso anche in Liguria in tempi ancora più recenti, dopo la tragedia del Ponte Morandi a Genova, quando una ditta subappaltatrice, con il compito di demolire scarti ferrosi del ponte, è stata bloccata nei lavori causa infiltrazioni mafiose al suo interno. In realtà questi due sono due esempi tra i molti che ne potremmo elencare, che potremmo citare. Ma già da questi due vediamo come la corsa al denaro non si fermi nemmeno di fronte alle calamità. Anzi, a volte veda addirittura un'accelerazione, perché a volte i tempi possono essere più proficui per le organizzazioni criminali. Proprio per questo bisogna evitare che in un momento difficile e delicato come quello che stiamo vivendo vengano allentate le attenzioni sulla criminalità organizzata. Dobbiamo essere infatti consapevoli, ragazzi, che il venir meno di controlli, per esempio sugli appalti, anche nella nostra regione, potrebbero consentire ad imprenditori mafiosi, ad imprenditori comunque vicini in qualche modo alla mafia, che intrattengono dei rapporti con la criminalità organizzata, rapporti di vario genere, possono accaparrarsi facilmente piccole e grandi opere, soprattutto in settori prediletti dalle mafie, quali le costruzioni. Ovviamente le mafie già di per sé stesse hanno il tentativo di cavalcare l'onda di un'emergenza, appunto perché potrebbe essere più facile, vista la situazione emergenziale, che si facciano meno controlli, che ci si occupi meno della loro presenza. Ma tutto questo è molto pericoloso proprio perché sono in agguato e sono pronte a prendere mano molto, molto più forti. In questo breve assunto degli ambiti di interesse criminali che contribuiscono ad aggravare il quadro emergenziale della crisi sanitaria, economica e sociale, mi sono però dimenticato di citare gli altri attori della società, quelli buoni, diciamo, che spesso vengono sottovalutati. Cittadini come voi, ragazzi, o come me. Noi, cittadini qualunque, abbiamo più potere di quanti immaginiamo nel contribuire a immaginare un mondo un po' migliore di quello che viviamo oggi. Abbiamo innanzitutto la possibilità e la capacità di porci domande sul mondo che ci circonda, di andare oltre la superficie e ricercare della conoscenza vera, trascurando il sentito dire e imparando anche a valutare da noi stessi le fonti da cui attingiamo le nostre informazioni. Possiamo poi monitorare nel nostro piccolo le scelte delle istituzioni locali e nazionali, osservando il loro operato, individuare aspetti della nostra società o anche della nostra comunità in piccolo e usare gli strumenti che sono disponibili per la cittadinanza, per far sentire la nostra voce. La nostra voce la dobbiamo far sentire però nei modi giusti, perché lamentarsi e basta non serve a nulla. Ma iniziare ad essere propositivi può portarvi anche ad arricchire il mondo delle vostre idee, e chissà, magari anche a migliorarlo. Non dimentichiamolo, né voi né io, qualunque cosa ci troveremo a fare nella vita, questo. Ragazzi, io spero che voi possiate approfondire questo tema con i vostri insegnanti o per conto vostro. Anche il tema della cittadinanza attiva è un tema a me anche personalmente è libera molto caro, che penso possiate trattare anche voi. Io vi lascio con l'augurio di rivederci presto, oppure di risentirci. Al prossimo podcast.